Pierre Vidal, Pere Vidal, habla lent irvas me l'aire. Habla lent irvas me l'aire que usen venir de pruensa, tut cantes de l'ai magensa. Si, que canaus ben retraire, emu escout en risen, en deman per humut sen, tam es bel canaus pendire. Com nous sap tant dos repaire cum de rose tu cavenza, si cum claus mars e durenza, ni un tam fis jois esclaire, perché de la franca gen, a laisat mun cor jausent, a pleis che il fa girats rire. Com nous pot lo jour mal traire, cagia de lei suvinenza, che in leis nais gioie cumenza, e che ken sia lausaire, e ben ken diga nui men, che il megliere se scunten e il genser che il mun semire. E se usai rendirni faire, il naggia il grat che scienza m'addunate con lui senza, perché sui gais e chantaire, e tut cant faug da vinent, ai del seu el cors plasens, neis can e bun cor cusire.